Uccia! Voi fumando un bel camion, i cari dal paio voi, mamma mia, che danno c'è a te che salta il sol, oh, date lo che chiede a me, tanto c'è fumar, tutta la pipa e si la piva, saltando tra me, voi fumando un bel camion. para ustedes. Bien, pero bien fuerte. Hay muchos.